24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Io sono sindaco adesso, nel pieno delle mie funzioni. Può essere fra 24 ore sarò sindaco sospeso. La prima cosa è farò ma magari piano un caffè sospeso. Poi vediamo. Per solidarietà col caffè quando vengo. Ragazzi, il napoletano stretto. Oh, per solidarietà con caffè. Ma vado a prendere il caffè sospeso. Oh, sindaco, per solidarietà con caffè. Luigi De Magistris, che due giorni fa era qui ai nostri microfoni alle 8:15, conferma. Sospeso, io combatto in strada. Novello Masaniello è tornato, Luigi De Magistris. Che ha aggiunto, sindaco, è arrivata la sentenza. È arrivata la sentenza e salutatemela. Eccolo lì, Luigi De Magistris. Vabbè. Va bene, questa è 24 mattino, Sono le 6:33 minuti di giovedì 2 ottobre. E voglio salutare subito Lorenzo Nespoli, che allora è qui con noi, ufficiale, insediato. Saluta. Per tutti gli spettatori della TV un saluto, ovviamente. Saluto anche Pietro Lacorte alla parte tecnica. Qualcuno mi ha scritto dove è finito l'Alpino. L'Alpino l'hanno messo alla sera, quindi dorme l'Alpino di sera. Capisco che è un po' una contraddizione, però è così. Allora, sono le 6:34 minuti ormai. Vogliamo aprire il Parlamento? Eccoci qua. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Caffè sospeso. Anche per il ministro Boschi, caffè sospeso. Allora, intanto saluto Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Ben ritrovato Maurizio, eccoci. Buongiorno Andrea, Alessandro, buongiorno a tutti quanti. Sospeso. Sospeso, sì. Come il sindaco. Sei sospeso, il caffè è sospeso. Allora Maurizio, ti voglio presentare un neo ingresso al Parlamento. È la prima volta che l'abbiamo con noi, spero di poterlo sbrandare spesso, come dico io. È il direttore di affariitaliani.it, Angelo Perrino. Buongiorno direttore. Eccoci. Salutatemi a voi. Ormai si parla buongiorno, solo. Buongiorno Angelo. Si parla così, De Magistris. Tra poco ci arriviamo. Tra l'altro devo segnalare Affari Italiani, cosa avete combinato da tre giorni? Avete ingaggiato il grande Forattini. Sì, sì, è arrivato, siamo molto contenti di averlo con noi, era in silenzio. La prima vignetta è stata con riferimenti ai fatti per cui fu mandato a casa Repubblica, cioè lo sbianchettamento che provocò l'ira di D'Alema. Sì, sì. Sì. E insomma, ogni giorno la vignetta di Forattini, se volete, oltre a altre cose su affariitaliani.it. Ma qui da che dovevamo iniziare? Da questo, da De Magistris, la notizia, tanto voglio dire, sull'articolo 18 e il dibattito che adesso ci trascineremo per giorni e giorni. Direttore, hai visto? De Magistris, combatte, Masaniello. Sì, io ho scritto proprio su questo ieri sera un pezzetto dicendo ora per favore ci venga risparmiato nei talk show, perché quest'uomo... magistrato fallito con sentenze tanto clamorose quanto inchieste tanto clamorose quanto vuote, provvedimenti solo spettacolari, e di ieri la soluzione generale di trafficanti di droga secondo lui, e poi sindaco non amato, quindi un uomo che non ha più nulla da dire e che oggi rifiuta di applicare una legge che invece proprio magistrato dovrebbe applicare, e critica i suoi colleghi. Mannaggia, adesso come faccio dopo questo attacco? C'è Tortorella che è il maggior amico di De Magistris, dovrà tirare fuori delle cose per difenderlo, inenarrabili. Mi fai ridere perché proprio qualche giorno fa, sì, in un impeto di masochismo proprio, sì, di quelli rari, sono andato a ritirare fuori dalla libreria il libro Giustizia e Potere di Luigi De Magistris, sì, e mi sono messo a ridere perché uno che di sé ha un concetto così elevato credo che abbia serissimi problemi. Ma addirittura. Ma lui, no, serissimi problemi, sì. Adesso come farà? Per forza dovrà andare, mi spiace per Angelo Perrino, ma continuerà ad andare nei talk show per i prossimi 4 mesi, sì. Un anno e ma tanto ha detto, guardate che 2 giorni fa anche qui ha detto, tanto arriva la prescrizione entro la fine dell'anno, quindi io quattro mesi rimango sospeso, e poi ritorno, non è no, che... Comunque il fallimento dell'ex magistrato è poca cosa rispetto al fallimento del sindaco sospeso, perché io mi ricordo benissimo che lui appena insediato raccontò e gridò al mondo che avrebbe realizzato la separazione dell'immondizia al 95%, sì, meno di quello che aveva fatto. No, forse era al 70%, adesso 95, non lo so, 70%. No, disse oltre 80%, una cifra. Comunque, però, cioè, questo è da dire, Angelo, è stato votato, questo almeno. È vero che l'indice di gradimento pare che dica che sia già un 14% in meno rispetto a quando i napoletani l'hanno votato, però Certo, ma fa parte di quel periodo in cui i candidati venivano eletti attraverso i talk show, ricordiamoci anche la Polverini, erano momenti così. La rivoluzione arancione, ve la ricordate? Esatto, la rivoluzione arancione, questo epigono un po' più belloccio e più colto di Antonio Di Pietro, non ci ricordiamo, fu una trovata che nacque in quell'ambito. E niente, io credo che la politica, l'amministrazione debba tornare a recuperare sobrietà, competenza, rigore e non deve nascere nei talk show. Io direi che ce l'hanno sulla coscienza i nostri colleghi che hanno dato spazio a un signore che non aveva argomenti per raggiungere quella notorietà. Mannaggia, chi ti riferisci? Santoro, dai, dobbiamo dire Santoro. L'abbiamo ospitato, però Santoro vuoi mettere, Santoro, Travaglio. Il teatro greco e la tragedia greca di Santoro e Travaglio sono tra questi. Salutiamo. Ma parte di questa compagnia e gli Ingroia, è tutto un meccanismo, ci ricordiamo Ingroia, da lui dipendevano le sorti del Quirinale, di tutte le trattative politiche, e così poi si è diventato un piccolo signore che cercava un posto in Guatemala, poi è tornato, una lista fallita, e ancora oggi per fortuna ha avuto il buon senso di dire a De Magistris: ma che stai combinando? Piccola resipiscenza. Vabbè, abbiamo sistemato, caro Tortorella, vuoi aggiungere qualcosa? No, va detto che obiettivamente De Magistris dal punto di vista elettorale ha funzionato, perché anche le elezioni europee aveva preso, mi pare, se non ricordo male, più di 450.000 voti. Ah, no, ma certo. La sua fama c'era tutta. Io ho l'impressione personale, ma appunto ripeto, sarà una questione personale, una visione personale. Dopo l'esperienza napoletana tanti voti non ne prenderebbe, così, ma insomma, ma ripeto, questo sondaggio citato, che era IPR per il Sole 24 ore, lo dà 14 punti in meno rispetto a quando è stato, però lui ha detto sicuro di sé, dovessi decidere sicuro. Vabbè, che è una caratteristica, se uno vuol fare politica deve essere la prima caratteristica, dire vinco sicuramente anche se prendi l'1%, perché se non ci credi neanche te stesso. Comunque sentiamo ancora De Magistris che dice: non mi dimetto, Alfano dica quello che vuole. Cioè, Alfano dice in Parlamento quello che ritiene, ma io se annuncio, puoi annunciare, sento di dire tutto in questi giorni. Quando arriva un provvedimento formale io commenterò il provvedimento formale, farò i miei passi successivi, insomma, io l'unica cosa chiara è questo: non so quello che faranno gli altri, so quello che farò io, cioè io non mi dimetto, farò il sindaco di Napoli fino al 2016 e starò di più per strada a fare il sindaco tra i cittadini. Vabbè, sindaco sospeso, questo è, niente, non si dimette e starà per strada, che è un po' forse vuole recuperare quella cosa che l'ha fatto vincere, no? Apparire come l'uomo di strada, appunto, che porta avanti la rivoluzione napoletana, insomma, quindi vuole trasformare questa mancanza di consenso forse in questo momento nella sua carta, a suo modo di dire, vincente per il futuro. Possibile. Resta il fatto che uno che 3 anni fa gridava a Guido Bertolaso: dimettiti, perché è una vergogna, e soltanto perché aveva ricevuto un avviso di garanzia nel momento in cui è stato condannato dovrebbe avere altri comportamenti. Insomma, vedremo, tanto la telenovela De Magistris continuerà, caro Perrino, nonostante tu possa pensare al contrario, continuerà. Va bene, no, veniamo alla questione più stringente. Sull'articolo 18 direi che si sono un po' calmate le acque. C'è Bersani che ha alzato molto la testa e vorrei capire cosa ne pensate voi, perché Bersani ha detto ieri in Parlamento: basta, qui mi vogliono insegnare come si fa a stare nel partito, io le riforme le ho fatto delle riforme hard, ha usato, no? Sono il primo riformatore, ricordiamo anche le lenzuolate di Bersani. Insomma, Perrino, fa bene Bersani ad avercela un po' con chi lo addita come il conservatore, il vecchiume, ciò che c'è del PD che non va più? Ma sì, c'è un po' di confusione dentro il PD. Bersani aveva parlato di metodo boffo, io mi ero chiesto: ma quale metodo boffo? Adesso ha detto: ma mi riferivo in generale al partito e non solo a me stesso. Sì, mi lì è stata un'uscita forse un po' esagerata. Sì, mi pare che cambi direzione tutti i giorni questa minoranza del PD. Sa di fatto che Renzi li ha un po' mortificati nella loro inconsistenza e oggi annaspano dentro una strategia che non si vede, che sembra più quella della Camusso, sembra appunto una minoranza che sta alle logiche della CGIL e dunque va a sbattere. Vedremo peraltro in Parlamento, loro dicono: spostiamo la battaglia lì. Temo che lì con gli emendamenti, come hanno detto, ci sarà qualche sorpresa e questo benedetto articolo 18, che piaccia o no, sarà come sempre sottoposto a annacquamenti e integrazioni che faranno come sempre delle nostre riforme un pastrocchio che non serve a nulla e non mette contento nessuno. La mia sensazione un po' è questa, cioè che la strategia renziana sia questa, dopo avere, come dire, fatto fuoco e fiamme a dire noi rivoluzioneremo eccetera, e poi alla fine, non so, Maurizio Tortorella, che succede? Ci sarà qualche compromesso, qualche annacquamento appunto? È probabile, anche perché... Però magari la sensazione è quella, come dice lui, li ho spianati, quello che no, lui dice li ho spianati, ma poi alla fine, come la DC, vecchia maniera, insomma, si trova d'accordo. È la strategia Renzi, è un passo avanti, due indietro, è un po' tutto così purtroppo, adesso lo dicono in tanti, prima eravamo in pochi a dirlo, non è bello e non è neanche buono per il paese, perché ovviamente servirebbe ben altro. Ho lanciato a Uno Mattina qualche settimana fa un hashtag, sì, che Renzi come una ciclette, nel senso che... Perché la ciclette? Questa mi manca, la ciclette. Perché egli fatica, pedala, fa un grande sforzo, ma poi venendo giù con la telecamera si scopre che il suo pedalare è fatto non su una bicicletta ma su una ciclette, cioè il paese è fermo come una ciclette, sì, come una ciclette, facendo grandi sforzi. Pedala, non si può. Oh, ma tra l'altro devo dire, abbassiamo un po' la voce perché è meglio che non ci senta nessuno, ma il Fatto Quotidiano oggi fa due pagine per dire che Renzi forse è massone. Però questa ci mancava. Sì, però no, perché viene intercettato, viene pubblicato il brogliaccio di un'intercettazione di Carlo Fusi, vi ricordate, imprenditore che era andato finito la cricca, eccetera, che parlando con un altro imprenditore dice: loro hanno un'entratura molto forte col sindaco di Firenze per rapporti massonici, però non si capisce se rapporti tra i due imprenditori o rapporti tra l'imprenditore e Renzi. Mettiamo questo, Maurizio, tu però non dirlo a nessuno. Delle intercettazioni, per me quelle intercettazioni laddove si parla di altre cose che rispetto all'inchiesta in particolare di cui che scatena l'intercettazione dovrebbero essere cancellate, sono bla bla, io non ho la più pallida idea di se sia o non lo sia. Lo adombrava anche Ferruccio De Bortoli in un editoriale. Sì, cioè parlava del patto del Nazareno che aveva. Però frequente non è questo il problema, perché non è bello, non sono favorevole all'essere massoni, nella massoneria in generale. Però intanto il venticello va avanti. Sì, sì, il venticello avanza e non è bello nemmeno questo. No, no, no, sicuramente no. 24 mattino. più cretino di te non esiste, a sdilinguirti per quella sciacquetta della Boschi perché parla come qualsiasi ragazzetta. Ma vergognati, se fossi tua moglie stasera ti darei tante di quelle botte. Invece tagli alla camera, si dovrebbero tagliare i coglioni, qui ci vuole il duce e basta. Milan, ma sei proprio sordo? Renzi non fa l'intervista, Renzi rilascia l'intervista. Questa è lingua italiana che tu non hai ancora imparato. Sono incapaci, idioti, ladri, bugiardi, traditori, parole, parole, parole. Quando c'è da spalare merda siamo sempre noi, sempre noi. Che bello, finalmente per un'altra volta sono stati trombati D'Alema e il suo compagno. Sono molto molto contento. Quella frase che ogni tanto viene fuori di la zappa. Ecco, la zappa ci vorrebbe per te. Siete penosi. Penosi! Vabbè, caro Angelo Perrino, direttore Affari Italiani, abituati perché questa è, è il tenore della segreteria telefonica. Sono fantastici questi interventi. Ma, no, solo sì. Perché poi mi sono innamorato della voce della Boschi. Ma che male c'è, voglio dire? Sentiamola un attimo adesso, perché vorrei da voi anche. Sì, io mi considero di sinistra, assolutamente. I valori della sinistra di oggi sono. Cioè, non so, adesso ditemi voi, Maurizio. Cioè, senti come. Essere di sinistra suona la S. Non essere tanto custodi per dire. Del passato, della memoria. Non lo so, la signora si è arrabbiata. Perrino, questo è. È gelosa la signora, è gelosa la signora. So. Sì, tu dici la voce, ma devo dire che la Boschi insomma, rappresenta molto bene questo renzismo apparentemente conciliante, ma in realtà con degli obiettivi molto precisi. E poi ha questa bellezza, questa fisicità dirompente, molto fotogenica, che ne ha fatto è stata votata come la più bella in Parlamento. Ma che male c'è? Però io vi devo far sentire. Allora, sapete che c'è questo tema dei tagli alla Camera. Noi avremo anche il questore D'Ambruoso che dice che in realtà il tetto a 240.000 euro non è stato messo sul serio perché si potrà sforare. Con l'indennità, esatto. Sentite la presidente della Camera Boldrini che ieri, parlando dei tagli, la sobrietà necessaria, ha fatto un paragone. Ma certo la domanda di sobrietà che arriva dai nostri concittadini, che sono sempre più piegati dalle disuguaglianze, trova in San Francesco un riferimento che dopo 8 secoli parla veramente chiaro. Sì, capisco, ma San Francesco. Perrino, ce li vediamo come dei francescani i politici italiani. Sì, la Presidente della Camera, sì. Io la conosco, la incontravo ai convegni di redattore sociale nelle Marche. Questa è la sua cultura, ci piaccia o no, è donna che viene proprio da quel mondo. E quindi la citazione di San Francesco ci sta tutta. Ci sta. Che rispetto alla Boschi sono due tipi opposti, forse entrambe determinate, perché anche la Boldrini ama crescere e far carriera, ma gli stili sono molto diversi. Due modi di interpretare questa fase post-politica. No, ma era il paragone, insomma, la sobrietà, i tagli, San Francesco, insomma, mi sembrava. Non lo so. Era più adatta ai tempi di Mario Monti, dell'Ode. Effettivamente. Mamma mia, che fine ha fatto Tortorella? Che fine ha fatto Mario? Come passerà le giornate? È senatore a vita. Cosa farà Mario Monti? Guarda, se volete ve lo posso dire io. Dicelo, certo. Ha ospitato Carlo De Benedetti. Vabbè. Lì in Bocconi, nell'ambito della cattedra che De Benedetti finanzia in onore di suo padre, e hanno fatto un convegno dibattito. Fa convegni dunque. Sì, alcuni cenni sull'universo. Fa convegni. Incontravano prima di che diventasse presidente del Consiglio, continuamente a incontrarsi. È tornato in Bocconi con la disapprovazione dei docenti. Non è neanche ben voluto dai docenti della Bocconi. Scusa, io purtroppo per fortuna non sbianchetto, come dicevo Rattini. Le cose che sappiamo dobbiamo dirci. Dobbiamo dirci. E lui si è rimesso lì in Bocconi dopo che l'aveva lasciata è lì. E vabbè, Tortorella, quindi è lì, poi vabbè, al Senato ovviamente, facendo il Senato. A vita. Va bene, ma... dei gatti non vuoi parlare, tu, che visto che sei un amante dei gatti, perché oggi è la giornata dei gatti. Oggi è la giornata dei gatti? No! No, sulle cronache intendo dire, perché da una parte c'è il gatto della povera Mademoiselle Pen, e poi sì, c'è il gatto calciato a... ma no, ieri l'ho già detto, mi sembra, ho detto attirandomi ai Monti Strali che è riprovevole dare un calcio a un gatto, ovviamente. Direi. Ma anche dare un anno di carcere, come rischia quest'uomo, insomma, forse... anche in Italia ci sono, però... Sì, ma no, ma certo, ma mica sto dicendo che bisogna dargli un plauso, anzi, bisognerebbe, come dire, redarguirlo animatamente, mettiamo così, ma un anno di carcere mi sembrava un po'... Poi hai visto che c'è Tom e Jerry sotto accusa per razzismo. Tom e Jerry, ma che giornali leggi? Aspettandoti stamattina mi sono guardato tutti i siti. Tom e Jerry, di la verità, guardavi Tom e Jerry alle 5, no? Guardavi Tom e Jerry. Vabbè, io ho qui la copertina di Panorama su Google. Perché scrivete che Google sono i nuovi padroni del mondo? Perché certo, si googla per fare tutto. Non è soltanto Google, ci sono anche Amazon, Microsoft, sì, Facebook, Google, come diceva Berlusconi. Go, è vero, Berlusconi, Google lo chiamava. Sì, no, è una bellissima inchiesta, sì, molto alta, devo dire, ma che è assai utile per il lettore che non se ne rende conto, purtroppo, come tutti noi. Ma questi colossi mondiali che ormai rappresentano, hanno un valore di borsa di quasi 2.000 sì, miliardi di dollari, e quindi valgono tre volte tanto la borsa italiana, per intenderci, sì, hanno piani e progetti molto intrusivi, sempre più intrusivi, e hanno un potere che non ha mai avuto nessuno nella storia della e allora è la copertina di Panorama, il potere di Google e dei suoi fratelli, diciamo così. Io vi devo salutare, vi ricordo anche Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, affariitaliani.it, c'è Forattini che fa le sue vignette lì, se ti sei divertito sei il benvenuto nuovamente al Parlamento, e grazie, alla prossima, dopo il giornale radio c'è la rassegna stampa. Ma vergognati, se fossi tua moglie stasera ti darei tante di quelle botte. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui. Sono le 7:18 minuti. Siamo qui noi e voi, debosciati d'Italia, come mi piace chiamarvi anche voi. Cari juventini, oggi un po' con le pive europee nel sacco. Come state? State allegri? Su, allegri! Dai, che vi rifarete sicuramente la prossima volta. Allora, oggi parleremo di che cosa? A proposito di calcio, parleremo di questa tassa che si vuole mettere, anche il premier Matteo Renzi ha detto, per la sicurezza negli stadi, e quindi gli straordinari delle forze dell'ordine paghino le società calcistiche. Si pensava a una tassa sui diritti TV, ora si metterà una tassa sui bilanci. Oggi ci sarà il voto finale politico alla Camera. Avremo ospite l'onorevole Tancredi Turco del Movimento 5 Stelle, che ha lanciato questa proposta soprattutto per la tassa sui diritti televisivi. Avremo ospite anche il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. E poi parleremo, a proposito di tasse, o meglio di tagli, dei tagli alla Camera. Allora, ci sono questi tagli o no, questo tetto di 240.000 euro? Avremo il questore della Camera, Stefano D'Ambruoso. Questi gli ospiti più avanti. Ora andiamo a sfogliare, però, come di consueto, i giornali. In questo giovedì 2 ottobre, intanto, i titoli sono dedicati per la maggior parte dei quotidiani alla rivolta francese, no? No all'austerité, no all'austerità dell'Europa, con la Merkel che subito richiama anche Hollande, richiama la Francia a dire dovete fare i compiti, le riforme. Parigi contro il rigore, il deficit non scenderà, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera, strappo francese, Merkel non ci sta. Repubblica, austerity, Parigi si ribella, l'Unione Europea, l'ira della Merkel. La Stampa, austerità, l'Europa si spacca. Libero, tra Francia e Germania, in Italia non si magna. Questo è il titolo in rima di Libero. Per il secolo XIX la Francia si ribella al rigore. Le altre aperture invece il Fatto Quotidiano apre così. Due della cricca al telefono, rapporti massonici con Renzi. Sono vecchie intercettazioni che rilanciano questa voce, la massoneria, Renzi. Il Giornale, Napolitano fu indagato per tangenti, ecco la vendetta del sindaco cacciato, è la vicenda De Magistris che vedremo tra pochissimo, mentre il Messaggero titola così in prima pagina, addio allo scontrino fiscale, lotta all'evasione, ci saranno solo controlli mirati, mentre il Manifesto sullo stallo del Jobs Act, finito in un vicolo cieco, il titolo è Cul de Sacconi. No, da cul de sac, con la foto di Maurizio Sacconi in prima pagina. Mentre crisi mangia futuro, 62.000 nati in meno, questo è il titolo di prima pagina di Avvenire. Ma come detto voglio partire dalla vicenda De Magistris, l'abbiamo già sentito alle 6.30 alcuni audio con De Magistris che dice vabbè, sarò sospeso, vado a farmi subito un caffè sospeso, in onore del caffè. Tradizione tipicamente napoletana. Allora, il prefetto sospende De Magistris, così titola Nicola Barone a pagina 9 del Sole 24 Ore, ma ogni giornale dedica una, se non due pagine a questa vicenda del sindaco di Napoli che, come scrive il Sole 24 Ore, sprezzante, dice è arrivata la sentenza? E salutatemela. Io rimango in strada, rimango a combattere, non mi dimetto, tra qualche mese ci sarà la prescrizione e rimango sindaco di Napoli. C'è questo veleno, in realtà De Magistris non è che abbia detto niente di nuovo ieri, ma tutti i giornali rispolverano la testimonianza che De Magistris fece nel giugno scorso, quando fu chiamato proprio a deporre sulla vicenda Why Not, quella per la quale è arrivata la condanna in primo grado. E allora De Magistris disse: sì, io in passato secretai alcuni atti perché avevo timore che alcune persone che erano imparentate con dei magistrati potessero in qualche modo, e quindi secretai il nome di alcune persone. D'altronde, scrive De Magistris, cioè disse De Magistris in quella testimonianza, d'altronde già successe in passato quando fu secretato l'allora nome del presidente della Camera, Giorgio Napolitano, in una indagine di presunte tangenti. Poi quell'indagine finì, e come racconta anche oggi il Corriere della Sera, tutti i giornali, che Giorgio Napolitano fu archiviato tutto perché non fu trovata assolutamente nessuna prova di queste voci che circolavano di presunte tangenti. Però ecco che chiaramente De Magistris in qualche modo nella sua testimonianza Why Not tira in ballo nella sua veste di ex magistrato una vicenda che riguarda Giorgio Napolitano. Infatti oggi i giornali tornano su questa storia, ieri l'aveva rilanciata il Quotidiano di Calabria e eccolo lì, per esempio, il Giornale lo mette in prima pagina. Napolitano fu indagato per tangenti, la vendetta del sindaco cacciato. Cacciato da Alfano manda Pizzini al Quirinale, così Stefano Zurlo sul Giornale a pagina 8. Il ministro dell'interno sospende il sindaco di Napoli, lui replica con strani messaggi a Napolitano tirando in ballo un'inchiesta che lo coinvolse durante Tangentopoli. E insomma anche Repubblica, starò tra la gente, è la mia resistenza. Eccola qui, mi prendo la prescrizione, torno al titolo del Corriere della Sera. Insomma, un De Magistris che resiste e dice la sentenza è arrivata, salutatemela. Va bene, invece parleremo anche di questa vicenda, allora, dei tagli alla Camera. Ci sono questi tagli da 240.000 euro di tetto massimo? È stato messo il tetto massimo oppure no? Beh, questo è un mistero abbastanza chiarito. Pare proprio di no, come ha raccontato il questore della Camera Stefano D'Ambruoso, che sarà nostro ospite alle 8.45. Oggi Mario Aiello sul Messaggero racconta, pagina 8, Camera, commessi in rivolta, non siamo camerieri di lusso. Perché ieri, nella rivolta delle 25 sigle sindacali, ma ieri erano 21 sul Corriere, sono spuntate 4 sigle sindacali nuove dei dipendenti di Camera e Senato, mannaggia. No, no, vorrei una conta precisa di queste sigle sindacali. Comunque, ieri è successo anche che Andrea Vecchio, un fumantino deputato che è stato anche assessore in Sicilia, uno quando è stato nostro spesso ospite non le mandava certo a dire a nessuno. Ebbene, Andrea Vecchio, deputato di Scelta Civica, sentite cosa ha detto per rincarare la dose. I dipendenti della Camera, i commessi per esempio, sono protetti dalla politica, ridicolmente vestiti in livrea come dei camerieri, grottescamente remissivi e servizievoli coi cosiddetti onorevoli, che per questa mansuetudine bovina percepiscono buste paga da sogno. Ma mansuetudine bovina, ma così ha definito i commessi. Ricevono buste paga da sogno senza avere alcuna competenza che le giustifichi. A quel punto Laura Boldrini è partita lancia in resta, bacchettandolo, parlando di espressioni offensive con cui si getta fango su chi lavora nelle istituzioni. I commessi dicono: ma chi è sto vecchio, sto matto? Cameriere di lusso sarà lui. Insomma, il clima alla Camera è questo. Addirittura con il deputato Vecchio che parla di mansuetudine bovina, tipica dei commessi della Camera. Vabbè, vediamo qualcos'altro che mi ha incuriosito. Beh, intanto mi ha incuriosito questo, una notizia che viene riportata da Libero. La notizia è a pagina 18 ed è: nella Venezia, soffocata dagli ambulanti abusivi, multano il vuota soffitte che cede i libri usati. È una vicenda che riguarda Francesco Teardo, che però è conosciuto a Venezia come Franco Libri, un signore anziano, amante della cultura, appassionato di letteratura, che da anni passa in soffitta in tutte le case dei veneziani per recuperare i libri usati, che poi espone, e i veneziani lo ringraziano per questo, perché invece di buttare i loro vecchi tomi o farli ammuffire, li danno a lui, li affidano a lui, lui se ne prende carico, li espone un paio di volte lungo la fondamenta di San Basilio, utilizzando il muretto lungo il canale a mo' di bancarella. Il risultato è anche molto, leggo da Libero, immagino anche molti veneziani lo potranno confermare, molto amato, scambia i libri in genere gratuitamente, anche se ovviamente gli si lascia una mancia, gli si lascia... È stato multato in quanto abusivo. Multa di 5.164 euro, ritiro e sequestro di 125 libri e 127 fumetti da parte della polizia municipale, perché non aveva l'autorizzazione. E la città, racconta Libero, si è assolutamente mobilitata contro questa ingiustizia. E vabbè, succede. Sì, d'accordo, per la legge era abusivo, ma... Vabbè, dai, non fatemi commentare niente. Andiamo invece al premio Mani sul Volante. L'articolo che ci fa pensare di questa giornata vince il Fatto Quotidiano, con Giuseppe Lobianco. A pagina 11 racconta questa storia siciliana. Il garante non c'è, è il garante dei detenuti. Crocetta, scrive il Fatto Quotidiano, non lo nomina da un anno e mezzo. E allora, alla sede del garante dei detenuti ci sono 9 impiegati che non sanno cosa fare. O meglio, sono costretti a non fare nulla, nulla, dalle 7 del mattino alle 14. Alle 7 arrivano, sfogliano i giornali, fanno 2 chiacchiere, bevono il caffè, stirano avanti fino alle 14, perché non c'è nessuno, non c'è il nuovo garante, non c'è nessuno che gli possa dare degli ordini, nel senso lavorativi, impartire, fate questo, fate... Nulla, dalle 7 alle 14, pagati. E c'è da dire, manco per colpa loro, evidentemente. Il garante non c'è, impiegati costretti a non fare nulla. Da un anno e mezzo Crocetta non nomina all'ufficio detenuti il garante, i dipendenti si lamentano senza un capo, ci giriamo i pollici per 8 ore! E che è un'attività anche che dopo un po' rompe, 8 ore a girarci i pollici. Fatelo voi, dopo 2 minuti io mi sono già stressato. In questo mondo senza Dio, io non so quali altre cazzate verranno sfaggiate per verità qui. Alessandro Mingan, ti metto le ali. Sì, vabbè, siamo alla follia allo stato puro, ma a quest'ora, visto che ci svegliamo alle 5, a noi è consentita, a voi non lo so. Intanto c'è da dire che tutti i giornali aprono su che cosa? Aprono su quella che è il grido anti-austerità che arriva da Parigi questa volta. Parigi sfida Bruxelles sul rigore. Come racconta Marco Mussanè sul Sole 24 Ore, a pagina 3, circostanze eccezionali, questa è la formula magica prevista dai trattati alla quale Parigi cerca di appigliarsi per convincere la Commissione Europea e i partner, Germania in testa, a dare il via libera ai suoi conti disastrati. La decisione è quella di rinviare per l'ennesima volta ed è la terza in 6 anni l'obiettivo della riduzione del deficit al di sotto del mitico 3% del PIL. In nome dello slogan serietà sì, austerità no, ribadito dal ministro delle finanze Michel Sapin ieri, c'è stato questo annuncio. Subito allarmato Angela Merkel che dice mantenete gli impegni, sapete che lo schema è quello classico, il rigore su cui punta molto Berlino e invece la necessità di crescita, serietà sì, ma austerità no, come ha detto il ministro francese Sapin. Certo, ora si guarda con molta più attenzione anche a quella che è l'apertura della Francia, anche per quel che riguarda l'Italia. Come racconta il Corriere della Sera, pagina 3, Renzi ha più alleati e rilancia la politica contro i tecnocrati. Renzi che fa sapere, sono stato tutto il giorno a occuparmi di legge di stabilità, noi manterremo il vincolo del 3%, mi presenterò il 23 ottobre con le carte a posto al Consiglio europeo a Bruxelles, ma non perché avrò fatto i compiti a casa che chissà chi mi chiede, ma perché avrò fatto le riforme che gli elettori mi hanno chiesto nelle urne delle europee. Questo, secondo il Corriere della Sera, è l'intendimento di Matteo Renzi dopo che ieri appunto anche la Francia chiede più flessibilità, o meglio serietà, ma non rigore assoluto, non austerità. Tra l'altro su questi temi parla il ministro dell'economia Padoan, lo fa in un'intervista al Foglio che tra poco vedremo. Padoan che racconta Repubblica ieri ha definito la crisi italiana con la perdita di PIL, la caduta del PIL, peggio della crisi del 1929. Tanto che Repubblica titola così a pagina 4, Padoan, è peggio del 29, la società è a rischio. E si evoca con Roberto Petrini un piano da 12 miliardi e mezzo per tentare la ripresa. Ma come detto, Padoan fa una lunga intervista con il Foglio, la rilascia Marco Valerio Loprete. Il titolo è questo, non male i calzoni corti, dice Padoan, non male i calzoni corti perché usa questa espressione, è il governo dei calzoni corti, no? dei giovani, della generazione 2.0, e dice Padoan, io mi ci trovo bene, sono abituato a convivere con superiori energetici, nel buon senso dell'espressione non ti lasciano mai in pace. E vista da dentro, da questo governo, la situazione è meno caotica di quanto a volte possa apparire da fuori. Dice Padoan, ho sicuramente un obiettivo di medio termine, le politiche economiche cui pensano hanno per definizione bisogno di tempo, alle politiche che stiamo mettendo in campo servono i 1000 giorni, non certo a me perché voglio stare più a lungo seduto su una poltrona, piuttosto sono convinto che entro 1000 giorni si vedranno i risultati di quel che sta succedendo. La mia forma mentis è questa, non esistono scorciatoie. Così Padoan sul Foglio. Dunque riforme, pazienza, fiducia. Dice per esempio sul tema del collega Sapin del 3%, lei replicherebbe domani l'annuncio che stiamo per sforare il 3% in Italia? No, risponde deciso Padoan. L'Italia ha certificato il rinvio al 2017 del pareggio di bilancio strutturale. Quello che accomuna Italia, Francia e altri è che la congiuntura della zona euro è molto deteriorata. Ciò rende più difficile l'equilibrio sui conti pubblici. La ricetta dell'Italia è la via maestra: recuperare competitività recuperando produttività. Il costo del lavoro per unità di prodotto deve scendere. Può farlo per varie ragioni: se abbassiamo i salari nominali, alle imprese i lavoratori costano meno. E questa è la storiella tedesca che piace a Sinn e soci. Ma ci sono altre due vie possibili, dice Padoan. La prima, abbattere le tasse sul lavoro, come stiamo provando a fare e continueremo a fare nella legge di stabilità. La seconda, investimenti ed espansione, creando un ambiente favorevole a suon di riforme. Così si abbassa il costo del lavoro aumentando i redditi dei lavoratori. E poi sulla TFR in busta paga, dice Padoan al Foglio, ne stiamo discutendo. Però sul TFR, che è un fatto solo italiano, insistono vari interessi in campo. Ci sono i lavoratori, la finanza pubblica via INPS, le imprese, i fondi pensioni, insomma opzioni complesse, come fa sapere Padoan. Oggi sul TFR torna al Sole 24 Ore, che ricordiamo una settimana fa aveva lanciato questa indiscrezione che poi evidentemente si è confermata sempre più. Tutto il TFR in busta paga su scelta volontaria del lavoratore. Questa è la linea che potrebbe essere messa a punto dal governo Renzi, lo racconta Marco Mobili. Ovviamente però sono tutte discussioni in fieri. Sul Secolo XIX Michele Lombardi racconta così: Renzi tira dritto, il TFR sarà la 14ª, dunque si punta a darla tutta a come 14ª alla fine dell'anno. Però lo stesso Padoan dice: vedremo, ci sono tanti elementi. Sull'articolo 18 invece continua la discussione. Il Corriere della Sera con Lorenzo Salvia racconta che, in base a quello che sta studiando Veronica De Romanis, che è uno degli economisti che Matteo Renzi ha portato nella sua squadra, si sta pensando a una sorta di paracadute sociale. Di cosa si tratta? Scrive il Corriere: il governo frena sull'emendamento che dovrebbe modificare le regole per i licenziamenti nel Jobs Act, la riforma del lavoro. In parallelo studia una clausola che potrebbe attutire l'impatto sociale del nuovo articolo 18. Di cosa si tratta? La clausola riguarda i cosiddetti licenziamenti economici, quelli cioè che dipendono dall'andamento negativo dell'azienda, e dice che quando un'impresa decide di licenziare deve partire dai lavoratori socialmente meno deboli. Chi ha una famiglia a carico, ad esempio, rischierebbe meno di chi non ha figli. Questa strada viene già seguita in Italia per i licenziamenti collettivi, quando in caso di crisi le procedure vengono concordate coi sindacati. Si pensa di trasferirla anche ai licenziamenti individuali regolati dall'articolo 18. Significherebbe così seguire il modello della Germania. Tra l'altro fa notare il Corriere che Veronica De Romanis, consigliere di Renzi, ha vissuto anche un periodo in Germania. E a proposito di articolo 18, continua il dibattito, ora alza la testa. Ieri l'ha fatto Pierluigi Bersani con dichiarazioni, è arrivato alla Camera, e Bersani dice: alla fine voterò sì, ma non prendo lezioni dai 101 che tradirono Prodi. Così racconta con Giovanna Casadio su Repubblica Bersani: non prendo lezioni, io ho fatto le lenzuolate, ho fatto le riforme hard su commercio, energia, competitività, ne ho parlato tuttavia solo dopo averle fatte. Insomma, un Bersani che dice: è incredibile, mi sventolano l'articolo 18 come se fosse una palingenesi, ma da qui a un anno rischiamo di prendere una facciata noi del PD, perché raccontiamo che diamo assegni a tutti come in Danimarca. Ma ci rendiamo conto di dove siamo, di cosa è l'Italia? Un Bersani che però dice: alla fine voterò sì al Jobs Act, ma non mi si insegni come si sta in un partito. E poi esclude la scissione. Ma che scissione, sto nel PD con due piedi. Vabbè, caro Mauro Meazza, che dire? Buongiorno, buongiorno intanto. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Ti senti un po' atletico oggi? Perché questa me l'hai fatta tu di battuta l'anno scorso, no? Ti senti un po' atletico e... Sì, ma sai, il calcio è così più distante, insomma, diciamo, dai miei colori. Lo seguo più di rado, insomma, con minore passione, devo confessare. No, non vorrei poi finire anch'io nel nei tre gufi, insomma, anche che calcistici. Sì, no, sul Jobs Act effettivamente non si capisce mica tanto bene come va a finire, perché poi leggevo anche sul Sole 24 Ore oggi questa precisazione che si vorrebbe fare quando il licenziamento è disciplinare, eccetera eccetera. Beh, ci avvisa Claudio Tucci, qui nel 98% dei casi che si va a discutere si tratta di licenziamenti per motivi disciplinari, quindi insomma alla fine sembra che non stiamo riformando un bel niente. Dopo un po' viene un po' questo sospetto, abbiamo discusso tanto, non stiamo riformando nulla. Comunque tutto questo si vedrà, così come il TFR di cui già ricordavi. Intanto ti voglio dire che per il futuro si prospetta anche qualche aumentino automatico dell'IVA, però ti voglio tranquillizzare, riguarda tipo il 2016-2017, per quell'epoca magari avremmo chiuso le partite IVA. Potete chiudere tutti la partita IVA, avete due anni di tempo. Non dire così, si sente di partita, magari tu e io invece avremo, che ne so, vinto entrambi al Super Enalotto, e quindi saremo condurremo questa nostra chiacchierata da qualche isola esotica, che ne so. Anche perché guarda, il mondo cambia rapidissimamente. Oggi sul Sole 24 Ore puoi scoprire che è arrivato il primo carico di petrolio dagli Stati Uniti. Ma dai. Tu leggi materie prime, sì, Bellomo te lo racconta nelle pagine di Finanza e Mercati, e ti spiega anche perché. Questo è un cambiamento che rischia di essere epocale, cioè gli Stati Uniti che in pratica si sostituiscono ai sauditi come fornitori, come fornitori privilegiati di petrolio. Staremo a vedere, caro. Intanto ti vorrei dire che abbiamo segnato un punto molto importante, non per l'Atletico Madrid naturalmente, neanche l'Inter domenica peraltro ha segnato un punto. Beh, uno l'abbiamo segnato, il problema è che altri ne hanno segnati di più. Tendiamo in classifica, Tralasciamo questo dettaglio, no? Sulle etichette semaforo, tu sai cosa sono le etichette semaforo? Sono un giochino, un bollino che si erano inventati gli inglesi, per cui sulla base di zuccheri, sali, grassi contenuti nei cibi mettevano il bollino verde, rosso, giallo, quello che è. E perché lo tolgo? Il problema è perché il problema è che era un pochino capziosetto questo bollino, cioè finiva sempre per punire i prodotti della dieta mediterranea, non si sa come. E allora, come abbiamo segnalato la cosa alle autorità europee, che infatti hanno avviato una procedura di infrazione, ma se leggi Impresa e Territori c'è tutta la spiegazione. Alessandro Milan, al suo segnale, scatenate l'inferno. Eccolo lì. Allora, oggi il Fatto Quotidiano, cari ascoltatori, rilancia il tema di Renzi e la massoneria, e lo fa con il titolo di prima pagina, due della cricca al telefono, rapporti massonici con Renzi, e con due pagine, pagina 2 e 3, si raccontano di alcuni brogliacci di intercettazioni, di vecchie inchieste riferite all'imprenditore Riccardo Fusi, ricco e proprietario allora con Roberto Bartolomei del più grande gruppo di costruzione di Firenze, la BTP, nel 2009. I carabinieri sintetizzano così, racconta Marco Lillo sul Fatto Quotidiano, una conversazione tra i due, Fusi e Bartolomei. Eccola qui. I fratini, attraverso Mazzei, cioè parlano di altri, sono ben inseriti nel comune di Firenze e hanno un contatto diretto con Matteo Renzi. Fusi continua dicendo che detti legami sono forti di rapporto massonico. Ovviamente il Fatto Quotidiano dice: cosa vuol dire detti legami? I legami tra loro, cioè tra i due imprenditori di cui parlano, o tra gli imprenditori e Renzi? Tutto serve al Fatto Quotidiano per rilanciare queste voci, dopo che si ricorda anche Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera ha detto rendete noto il patto del Nazareno, caro Premier, un patto che odora di massoneria, ecco, credo che queste siano state le espressioni, stantio odore di massoneria, l'espressione usata dal direttore del Corriere della Sera. Ebbene, il Fatto Quotidiano fa due pagine, alberghi, affari, grembiulini, gli amici di Renzi al telefono. C'è anche la replica di Luca Lotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che fa sapere al Fatto Quotidiano: Renzi ha più volte chiarito che non ha nulla a che fare non solo con la massoneria, ma nemmeno con quella cultura. Tutto il resto è chiacchiera. Però come un venticello ovviamente continua a spirare questa idea, queste cose buttate qua e là di possibile possibili legami con la massoneria. Mentre a proposito di premier, c'è da segnalare l'intervento di un ex premier, vale a dire Enrico Letta, che oggi su Avvenire fa un lungo intervento scritto a pagina 3 nell'anniversario della tragedia di Lampedusa in cui morirono centinaia di migranti, 366 oltre a 20 dispersi. Enrico Letta fa un intervento a pagina 3 di Avvenire per difendere Mare Nostrum, che è nata proprio la missione per salvare i migranti in mare, è nata proprio alla luce di quella tragedia. Oggi, scrive Enrico Letta su Avvenire, alza la voce chi vuol far passare l'idea profondamente sbagliata che Mare Nostrum sia la causa dei flussi migratori verso l'Italia. Non è così. I flussi migratori dal Mediterraneo, che sono peraltro molto più ridotti rispetto a quelli che raggiungono i paesi nord europei via terra, sono figli non di Mare Nostrum, bensì degli sconvolgimenti geopolitici che non cessano di scuotere il Nord Africa e il Medio Oriente. Poi fa tutta un'analisi, insomma, comunque di difesa di Mare Nostrum, e quindi Enrico Letta che torna ad apparire pubblicamente, lo fa appunto con questa lettera su Avvenire. Noi parleremo alle 8:15 anche di questo tema che è sfruttato, sul quale ancora tornano i giornali, per esempio il Corriere della Sera con Andrea Arzilli, lo fa a pagina 17, il tema delle società di calcio. Il premier sfida le società di calcio, lo ha fatto ieri con un tweet: siano loro a pagare i poliziotti. Poliziotti che fanno gli straordinari per garantire lo svolgimento delle partite di calcio. È un tema che lanciamo anche a voi ascoltatori. Il numero verde 800 24 0024 è attivo dalle 8, quindi tra pochi minuti potete prenotarvi per parlare appunto di questo tema. È giusto secondo voi che le squadre di calcio paghino con delle tasse aggiuntive gli straordinari delle forze dell'ordine che proprio la domenica garantiscono la sicurezza negli stadi? Secondo Matteo Renzi è così, è giusto. Secondo l'onorevole Tancredi Turco, che l'ha proposto e sarà il nostro ospite del Movimento 5 Stelle, è così, è giusto, e quindi ne discuteremo con loro. Con Tancredi Turco avremo anche Maurizio Zamparini, presidente del Palermo. Mentre il Messaggero racconta che c'è un mistero a Fiumicino. Il titolo è questo: sono spariti 35 algerini. Sono atterrati. Ovviamente subito si pensa all'allarme terrorismo, come racconta Alessia Marani. Sono atterrati nel mese di settembre decine di cittadini nordafricani. Appena atterrati hanno fatto perdere le loro tracce dopo l'atterraggio. Sembra una cosa talmente incredibile, come se fosse un gruviera. L'aeroporto di Fiumicino, sta di fatto che racconta il Messaggero: spariti, scomparsi per la Digos, scomparsi per l'intelligence, uomini invisibili atterrano all'aeroporto di Fiumicino e hanno fatto perdere le tracce di sé nella capitale. Evidentemente sono atterrati, era tutto in regola, e poi al primo controllo di polizia si sono evaporati. Non lo so, io ve la dico così come la racconta il Messaggero, mentre la dico così come la racconta il Giornale con Thomas Leoncini. Un'intera pagina per dire che la carta costa sicuramente, ma non ce ne siamo bene accorti. Avete 100 euro, cari ascoltatori? Peter, sì, Peter. Pietro La Corte, in regia, hai 100 euro così in tasca. Sappi che con 100 euro ti puoi procurare in rete il cellulare di Belen Rodriguez. Il numero di telefono di Belen si compra in rete con 100 euro. Raul Bova 260, Benigni 640. Ma porca. 24 mattino. Siamo qui cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:20 minuti. Allora, Matteo Renzi forse ha identificato un nuovo avversario, un nuovo nemico nella sua azione di governo: le società di calcio. Sì, perché ieri il premier ha twittato a un certo punto del pomeriggio così: gli straordinari delle forze dell'ordine impegnate negli stadi devono essere pagati dalle società di calcio e non dai cittadini. La vicenda riguarda l'approvazione, che tra l'altro è prevista oggi con voto di fiducia, del complesso di norme studiate dopo gli incidenti del 3 maggio scorso, ricordate, a Roma, costarono la vita a Ciro Esposito. E pare che Renzi voglia far pagare proprio il costo delle domeniche calcistiche alle società di calcio. Per la verità, nel provvedimento di oggi si prevede un prelievo dall'1 al 3% alle società calcistiche, ma racconta la Gazzetta dello Sport oggi che in realtà Renzi penserebbe proprio a farle pagare tutte queste spese, e si parla, come ha detto il capo della polizia, di 25 milioni di euro l'anno. Chi li deve pagare allora? Intanto lancio agli ascoltatori l'idea 800 24 00 24, trovate giusto che siano le società calcistiche a pagare oppure un costo che deve spettare allo Stato. Chi pensa che debbano pagare almeno in una percentuale, o gli chiedo se totalmente, è un onorevole del Movimento 5 Stelle che ha lanciato questa proposta, ne ha fatto anche un emendamento, è l'onorevole Tancredi Turco, che saluto, buongiorno e ben trovato onorevole. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora, lei cosa pensa? Devono pagare? Il principio è questo, paghino le società di calcio? Allora, secondo noi del Movimento 5 Stelle il principio è questo, però credo che occorra fare una certa chiarezza. Perché oggi appunto votiamo questo decreto, è stata posta la questione di fiducia sul decreto, quindi non si può più emendare, il decreto passa così come è passato dalla Commissione Giustizia e dalla Commissione Affari Costituzionali. E il testo così come è adesso e quindi così come oggi passerà prevede sostanzialmente che dalle società di calcio venga pagato un piccolissimo, esatto, contributo tra l'1 e il 3%, tra l'1 e il 3%, ma esclusivamente sugli incassi degli stadi. Okay. Quindi parliamo di cifre che sono di circa probabilmente 4 o 5 milioni di euro da dividersi per tutte e 20 le società di serie A, certo, e anche un piccolo contributo alle società di serie B e di serie C. E vorrei anche far notare un'altra cosa: il costo invece delle forze dell'ordine che ogni domenica vengono impiegate appunto per l'ordine pubblico si aggira invece sui 150, cioè sui 45 milioni di euro all'anno. Sì. Il costo di appunto delle forze impiegate negli stadi. Anche io leggevo, quindi, cioè, sentivo. Qui vediamo che il contributo è francamente minimo, forse a contribuire a quella parte di straordinario. Ah, ecco. Pagate le forze dell'ordine, sono gli quindi quando il prefetto Pansa, il capo della polizia, parlava di 25 milioni, sono gli straordinari. 25 milioni sono gli straordinari delle forze dell'ordine. No, penso che sia il costo totale, a dire la verità, però comunque secondo i miei dati è molto più alto, se dire sui 45 milioni. Sui 45. Beh, il capo della polizia dice 25. Perché prevede anche gli elicotteri che girano sopra lo stadio, quindi ci sono dei costi notevoli. Dai, chiaro, in alcune partite la tensione è maggiore e quindi è così. Lei aveva proposto, credo, di prendere questi soldi, una percentuale, dai diritti televisivi. Ogni società ha dei diritti televisivi che vengono venduti e quindi prendere percentualmente anche da lì. Certo, allora, perché oggi i ricavi delle società di Serie A, parlo soprattutto dei 20 club di Serie A, sono in minima parte dovuti agli incassi dei biglietti, sì, venduti e degli abbonamenti, ma il grosso, la ciccia, sono i diritti televisivi. E i diritti televisivi si ammontano a 943 milioni a stagione, quindi quasi un miliardo di euro. E che se lì si va a chiedere un contributo anche dell'1% su questi 943 milioni, i soldi che si ricavano sono molti di più, e allora questi permetterebbero di andare a pagare praticamente tutto il servizio delle forze dell'ordine. Questo emendamento non è passato? È passato? Questo emendamento ovviamente non è passato. Non è passato. Lì si prendeva anche di più. Però il principio è questo. Allora, lei presenta a tutti gli ascoltatori uno dei presidenti delle società di Serie A, presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, che ne dice? Partiamo dal principio. Il principio renziano cosa le suscita? Io sono sconsolato in questo paese, dove con tutti i problemi che ci sono tutti i giorni ci sono migliaia di attività, dove c'è una disoccupazione galoppante, ancora facciamo della spicciola demagogia. Primo, preciso che il calcio, io ci sono dentro da 30 anni, dà allo Stato circa un miliardo di tasse all'anno e non riceve nulla. Sto parlando della Serie A, calcio di Serie A, sì, da circa un miliardo all'anno. Preciso che le forze dell'ordine svolgono un principio in Italia di sicurezza, per cui io se dovessi far pagare il servizio di calcio la sicurezza garantita dalle forze dell'ordine, direi che anche i politici, per la loro sicurezza, tutte le scorte, tutto il personale che muovono dalla polizia stradale, quando si spostano, quando fanno le manifestazioni, se li pagano loro. Direi che la stessa cosa potrebbe succedere per i magistrati, direi che la cosa dovrebbe succedere per tutte le categorie di italiani che svolgono un'attività. Ora, io considero il calcio un fatto sociale, che centinaia di migliaia di persone tutte le domeniche si spostano, vanno agli stadi per passare per il loro divertimento 2 ore, 3 ore, e come quelli che vanno poi nei musei, che vanno poi al circo, che vanno poi... Quindi lei contesta il principio di dire perché colpire il calcio? È aberrante che faccia della spiccia delle... demagogia, è aberrante che uno vada a dire io vado a prelevare ancora, con tutte le tasse che paghiamo in questo paese, che è il paese che ormai strappa i risparmi ai cittadini per mantenere una categoria di persone che ci amministra in maniera delinquenziale, e ripeto delinquenziale, perché stanno distruggendo il paese. Ora, questa qui è facile, è di facile presa, no? Sulla gente che le dice guarda, li state pagando voi i poliziotti, allora bisogna che li paghino loro. No, non li state pagando, perché quei poliziotti, se domenica rimanessero a casa tutti, lo stipendio lo prendono lo stesso, anche se non vengono allo stadio. Sì. E non penso che prendano degli straordinari, perché molti vengono per vedere la partita. Se a Palermo non ci venissero, è una cosa giusta, sarebbe dire all'interno degli stadi, voi dovete preoccuparvi della sicurezza, ma fate delle leggi in maniera che i nostri vigilantes possono valutare per assicurare la sicurezza, come in Inghilterra, e lo deve fare subito. E la polizia deve dare solo la sicurezza agli esterni degli stadi, non all'interno dello stadio. Però, Presidente, a voi cosa siete pronti? Perché oggi sulla Gazzetta si parla di possibile serrata, sciopero, ci sarà un'assemblea di Lega, credo, un'assemblea straordinaria. Io mi metterei solo a piangere, perché cosa vuole che facciamo serrate per che cosa? È un fatto sociale il calcio, no? Ma queste sono cose che scrivono i giornali, non penso che non ci sarà nessuna serata. Se dovesse passare una cosa del genere, per legge, ancora una volta, noi italiani, ancora una volta la categoria, abbassa la testa e si fa derubare da uno Stato canaglia che sta distruggendo la nazione. Perché lo sta distruggendo con le tasse. Io faccio l'imprenditore e le giuro che 8 ore su 10 in questo momento sto lavorando per le tasse. Difendermi dallo Stato, per difendermi dalla burocrazia, per difendermi dalle tasse, perché tutti scappano. Lei lo sa che in Austria, settimana scorsa, un mio amico l'hanno chiamato a Klagenfurt, c'è un ufficio per le aziende italiane. È chiaro, lì si paga molto meno. Si paga meno. Vengono assistiti, gli danno i capannoni, gli danno i finanziamenti, si spostano ogni settimana dal Triveneto 5 aziende dal Triveneto in Carinzia. Queste sono le cose che dovete scrivere sui giornali, ed è la verità. Beh, insomma, viene raccontata questo esodo, queste sirene che attirano. È molto più importante degli stadi che fa notizia. Il dato di fatto è questo. Io vorrei tornare un attimo, onorevole Turco. Oggi passerà questa. Voi del Movimento 5 Stelle come voterete? E voterete no, perché mi faccia capire, perché di principio voi avete sempre detto: noi sulle cose per le quali ci battiamo, se troviamo anche un appoggio sulle nostre proposte, votiamo sì. Cioè, voi appoggerete la linea Renzi politica, perché mi sembra che di principio siete d'accordo, paghino le società, oppure politicamente votate no perché siete all'opposizione? Allora, intanto mi sento di rassicurare il Presidente Zamparini, perché così come è uscito dalla Commissione, dalla Commissione il testo appunto del decreto, pagherà pochissimo, praticamente credo che si tratti di qualcosa come 200.000 euro all'anno per società circa, di contributo appunto per gli straordinari delle forze dell'ordine. Io vorrei fare questa osservazione. Credo che ci siano due settori oggi dove girano veramente tanti soldi. Uno, e l'ha ricordato il Presidente Zamparini, sono d'accordo, è la politica, l'altro è il calcio. Altra riflessione da fare, io credo che la maggior parte dei cittadini italiani non è che segua il calcio, è una minima parte di quelli che seguono il calcio e quelli che soprattutto vanno allo stadio. E quindi io credo che non sia ingiusto far pagare a tutti i cittadini, a tutti i contribuenti italiani ciò che seguono gli stipendi della polizia o dei carabinieri che la domenica puntualmente vanno allo stadio. Però non crede, onorevole Turco, non crede, Zamparini dice anche che ne so, le scorte dei politici magari uno non le vuole, eppure le paghiamo tutti, le scorte dei magistrati magari alcune sono giuste, altre no, eppure le paghiamo tutti. Cioè, non è che una cosa deve essere pagata da tutti se è condivisa da tutti. tutti, non crede? Anche discutere, potrei anche essere parzialmente d'accordo, ma ripeto, il concetto è questo: non si può far pagare ai cittadini, che magari di casa non gliene frega niente, il fatto che puntualmente ogni domenica vengano impiegati negli stadi, invece magari di essere in giro sul territorio a monitorare e a contribuire alla sicurezza, cioè, dei cittadini in tutte le città e in tutta Italia. No, ma è questo il principio. Zamparini, si rassegni, insomma, molti, anche quelli, sì, però anche a quelli del ciclismo, anche a quelli di altre attività. Beh, però allora, il problema della violenza, Zamparini, c'è effettivamente soprattutto nel calcio, più che in altri sport. Il problema dell'organizzazione dello Stato non può essere calpestato in questa maniera. Lo Stato assicura l'assistenza alla sicurezza per tutte le manifestazioni dello Stato e si pagano le tasse per quello. Non si può far pagare le tasse ancora una volta per quello che hai già pagato. È veramente triste che questi politici ancora siano di così basso livello, ripeto, di bassissimo livello, da non capire che l'organizzazione dello Stato viene sorretta da tutte le tasse dei cittadini per tutte le attività che si svolgono all'interno dello Stato, e non puoi per ogni singola attività sociale poi farne pagare un'altra. Beh, allora dovremmo far pagare al ciclismo, alla pallacanestro, alle manifestazioni di tutti i tipi che si fanno, dove c'è la polizia che fa il suo lavoro. Ma anche se è poco, anche se il prelievo è poco, no, come senso, è una questione di principio. È il principio, non è il principio. Poco. Non è poco. Se io rubo 10, è uguale come rubare 1000, sempre ladro sono. Sempre ladro. Senta, Zamparini, mi dica, non è in pubblicità, non so se lei può tra 5 minuti ancora essere con noi, ma mi dica, faccio una domanda calcistica, perché insomma il Palermo adesso non naviga, ma ovviamente auguriamo per il futuro che vada meglio, ma non è che rischia l'allenatore, perché sa, lei è uno notore. No, assolutamente, come non rischia Mazzari, che ne ha preso il 4 del Cagliari, non rischiamo noi. Non rischia neanche no. Vabbè, tra qualche okay. minuto riprendiamo dopo la pubblicità, grazie, tra poco. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:37 minuti con l'onorevole Tancredi Turco del Movimento 5 Stelle. Onorevole, stiamo parlando di questa vicenda, insomma, di far pagare alle società di calcio la questione delle spese delle forze dell'ordine. Abbiamo salutato Maurizio Zamparini, che non è più con noi. Vorrei sentire qualche ascoltatore. Eleonora ci chiama da Piacenza. Eleonora, buongiorno. Buongiorno signor Milan, buongiorno. Io chiamavo perché questa proposta di Renzi mi sembra alquanto illuminata e forse è una delle proposte che si attendono da diverso tempo. Io ho esperienze di forze dell'ordine in famiglia. Io da quando sono bambina che vedo mio padre che la domenica piglia su e se ne va con la tenuta antisommossa a fare ordine pubblico presso gli stadi. E onestamente credo che i poliziotti proprio in quel servizio siano davvero molto degradati, perché sono sottoposti a trattamenti, a uno stress psicologico oltre che fisico. Ma questo è in dubbio, Eleonora, ma lei trova giusto che siano le società a pagare invece che... Perché non vedo perché dovrebbero pagarla i cittadini questo intrattenimento sportivo che quasi sempre sfocia in violenze. Ricordo i fatti di Salerno, quando i poliziotti hanno dovuto scortare degli aerei, dei treni che sono stati incendiati da dei tifosi, con incidenti io chiamo da Piacenza. Piacenza spesso è stata messa a ferro e fuoco da delle tifoserie di altre città. Sì. La proposta, Eleonora, che ci ha fatto Zamparini, che è tornato con noi qui, con noi, presidente del Palermo, cioè dire, perché non dare il potere, non so, Zamparini, questo ho capito, perché non dare il potere alle società di controllare la sicurezza? Ma che cosa ci vorrebbe da parte della politica, di leggi da fare? Come la Thatcher in Inghilterra. Infatti in Inghilterra le ha stroccati così, gli hooligan, cioè ci sono le celle negli stadi dove vieni preso, vieni pescato. E vieni messo lì, vieni processato in giro magari di 24 ore, intanto stai in cella, cioè vieni, però che cosa ci vorrebbe da parte della politica bisogna punire chi delinque, tutto lì, nel nostro paese chi delinque non viene punito, ma le leggi si va a punire tutti i tifosi, il 90%, 95% che vanno allo stadio con i tornelli, con i controlli, dove diventa come andare allo stadio, come andare alla guerra, e non si punisce quel 2% che conoscono benissimo, che vanno messi in galera. In Inghilterra la Thatcher gli hooligans li ha distrutti in 2 anni. Per cui noi presidenti non vogliamo la violenza negli stadi. Andare allo stadio ci devono andare i bambini, le famiglie, ci deve andare la gente a divertirsi. È veramente una tristezza vedere questo. Ultimamente è calato moltissimo, ma però non bisogna punire tutti i cittadini, ma bisogna punire quelli che delinquono. Sì. Onorevole Turco, lei come crede che, cioè il principio di dire paghino le società, non lo trova un po' un principio vessatorio da parte dello Stato? Cioè uno Stato quasi un po' che alza le mani, dice non riusciamo a garantire questo, e quindi che dobbiamo fare? Prendiamo soldi da lì per pagare le forze dell'ordine e gli straordinari. In questo caso assolutamente no. Io vorrei far presente che negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Germania, i costi per la forza pubblica impiegata negli stadi sono a totale carico delle società sportive che organizzano l'evento. Dopodiché, ripeto, forse stiamo facendo un dibattito inutile, perché così come è stato, come è uscito il decreto di cui oggi si vota sostanzialmente la fiducia, le società pagheranno un minimo contributo. Sì, però il principio come sai è in discussione. Ho capito, ma il giocatore che hanno in rosa, quello che probabilmente non hanno rose amplissime, quello che non toccherà mai per tutto il campionato se non fosse 10 minuti l'ultima gara di campionato, ha uno stipendio più alto di quello che devono pagare annuale, così come è uscito adesso. Mi faccia capire, lei ovviamente non è del Movimento 5 Stelle e non può sapere che cosa ha in mente Renzi, ma quando oggi la Gazzetta scrive che con quel tweet, se uno lo legge bene, vuol dire la sicurezza degli stadi la paghino le società, vorrebbe dire interamente, vorrebbe dire quelle decine di milioni, cioè non è che c'è in mente qualcosa, a parte il decreto di oggi, di andare più a fondo? Ma io non credo, io credo che Renzi si stia facendo bello davanti ai cittadini con quel tweet lì, ma in realtà, ripeto, con il testo che così è passato si dà semplicemente un minimo contributo agli straordinari, alle indennità delle forze di polizia impiegate dall'America, non c'è nulla di più. Insomma, Zamparini, no. Dai, rassegnatevi, venda uno del Palermo che guadagnerà, è caduta la linea, venda uno del Palermo che guadagna un po' meno e paga il contributo con questo. Cioè, che dobbiamo fare? Insomma, però il principio, insomma, gli ascoltatori, devo dire anche via SMS, sono soprattutto favorevoli a questa proposta. Forse sono, come dice lei, onorevole Turco, gli ascoltatori che non amano il calcio. Cioè, per questo principio, c'è sempre questo principio, non so, un po' di vendetta sociale. A me non me ne frega niente di calcio, e quindi le società di calcio paghino anche per me. Ecco, guarda, allora mi lasci dire che io sono un grande appassionato di calcio e anche un grande tifoso. Di che squadra? Lo dica subito. Non credo che interessi. Di che squadra? No, lo dica. Io sono di Verona, quindi tifo Hellas Verona. Vabbè, tifa Verona un po', ecco. Può starci. Va bene, però sono oggettivo e quindi secondo me è una questione di principio e ripeto, le squadre di calcio, con tutti i soldi che girano nel calcio, credo che sia assolutamente giusto che diano un contributo anche importante, appunto, al pagamento. Zamparini, l'abbiamo recuperata. Zamparini, insomma, si rassegna a cedere un giocatore, ceda quello che guadagna meno e ripiani questo piccolo contributo. No, è caduto. Che dobbiamo fare, cioè, Zamparini? Vabbè, insomma, lasciamo stare. Andiamo allora a Pier Andrea da Bergamo. C'è un problema di linea con il presidente del Palermo. Pier Andrea da Bergamo, un'altra piazza di quelle un pochino calde quando si parla di calcio. Lei, Pier Andrea, è tifoso? Io sì, però sì. Non frequento, vabbè, non sono uno di quelli che va allo stadio. Però volevo dire una cosa, io con questa proposta che è stata fatta da Renzi sono sicuramente d'accordo, anche se poi non so cosa ci sia dietro, se è una cosa politica o se effettivamente c'è una volontà. Non sono d'accordo con quanto dice Zamparini, in quanto prima diceva che il calcio fa il tessuto sociale, ma il tessuto sociale non lo fanno le società di Serie A, il tessuto sociale lo fanno le associazioni sportive dilettantistiche che radunano i ragazzini, che all'interno hanno degli allenatori o degli educatori che si muovono e fanno le trasferte con dei semplici rimborsi spese. E portano al seguito gente che non parte col casco e col manganello da casa per menare il genitore del bambino che non gioca. Quindi società di calcio di Serie A fanno questa cosa qua, creano dei costi, perché oltre al mantenimento degli straordinari della polizia ci sono anche i danni che questi signori lasciano. Capito, ma non è che, cioè, voglio dire, io adesso voglio spezzare una lancia per il calcio, ma creano dei costi, ma è anche un fenomeno sociale che crea, che genera anche divertimento. Voglio dire, ma il problema problema è di come viene vissuto in Italia. Ma se ci sono dei delinquenti che ci sono le leggi, andrebbero presi, sbattuti in carcere, se fanno dei reati si perseguono questi reati. E sa come in Gran Bretagna hanno vinto il problema degli hooligans come prima cosa? Una bella carica della polizia a cavallo, come ho detto in passato, che quando ti arriva una zoccolata di un cavallo in testa, caro Pierandrea, guardi che fa male, cioè, si potrebbe iniziare così, cioè, facciamo rispettare le cose, nessuno dice che bisogna distruggere gli stadi o creare dei danni, bisogna perseguire chi lo fa, uno distrugge un lavandino e lo si mette in carcere per un mese, vedrà che magari il lavandino non lo distrugge più. Comunque questo è il suo parere, Pierandrea, la ringrazio, vorrei andare a Brescia da Riccardo. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a lei. Dica. Allora, io sono del parere che i poliziotti lì che vanno allo stadio dovrebbero essere sovvenzionati privatamente dalle società di calcio, perché lì vanno in guerra quella gente lì, come quelli che vanno nelle varie nazioni a fare le missioni di pace, che avranno un stipendio molto più alto. La stessa cosa dovrebbe essere per gli stadi e soprattutto i volontari che vanno lì agli stadi, poliziotti volontari, poi verranno pagati in più di quello che prendono lo stipendio dalla società. Insomma, perché pagano anche le spese che spendono le società per gli ultras, potrebbero anche spendere per gli poliziotti. Quindi dovrebbero pagarle le società, questa è la sua linea. Va bene, io Riccardo la ringrazio, intanto ringrazio anche l'onorevole Tancredi Turco, grazie per essere stato con noi del Movimento 5 Stelle. E ovviamente grazie anche al presidente Zamparini, gli ultimi minuti ci siamo persi un po' di linea, ma abbiamo capito il suo parere, presidente del Palermo Calcio. Dopo il traffico invece ci concentreremo sulla questione dei costi della Camera. Abbiamo ospite con noi il questore della Camera, l'onorevole Stefano D'Ambruoso, non so se è già in linea, intanto no, lo recuperiamo tra un attimo, il traffico e poi siamo da lui. 24 mattino. Siamo qui, 8:48 minuti. Allora, vogliamo parlare di questi tagli ai dipendenti di Camera e Senato, per la precisione di dipendenti alla Camera in questo caso. Lo facciamo con uno dei tre questori, onorevoli questori, l'onorevole Stefano D'Ambruoso. Buongiorno onorevole, eccoci, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, perché qua c'è il mistero, intanto lei è stato uno dei primi a dire, intanto lei si è astenuto nell'ufficio di presidenza in quei voto in cui si è messo il tetto a 240.000 euro, anche perché lei ha detto questo tetto non c'è, cioè calcolatrice alla mano, non è vero che adesso al massimo si guadagnerà 240.000 euro, si può superare questo tetto, ce lo conferma? Sì, senza voler essere né punitivi nei confronti dell'ottima professionalità che esiste lì alla Camera dei Deputati, però io ho avvertito sin dall'inizio che se volevamo andare nella direzione indicata a tutti i cittadini italiani dal Presidente del Consiglio Renzi, cioè di fare un grosso sacrificio perché il periodo storico ce lo impone, questa emergenza economica ce lo impone, allora quel tetto deve valere per tutti. Non è possibile che a un metro fuori di distanza da quel palazzo ci sia chi ogni giorno deve lottare per sopravvivere e lì all'interno c'è chi difende ancora delle posizioni che appartenevano a un'altra epoca storica in cui alcune cose erano ammissibili, oggi non lo sono più. Non lo so, quel tetto deve essere di 240.000. Però, non c'è appunto, ci sono, cioè, lì, che lì, cos'è che fa sforare questo tetto? Cos'è? Di fatto si arriva a 360.000. Che cosa 360.000. Lo fa sforare? Lo fa sforare il fatto che i 240.000 sono solo nominali, perché bisogna aggiungere gli oneri previdenziali, quindi sono al netto, e bisogna aggiungere anche delle voci di incentivo, come se fosse necessario essere incentivati avendo già quel tipo di stipendio, e per vedere incentivi per giustificare le diverse gerarchie all'interno della macchina che governa il palazzo. Senta, ma è vero che in tutto questo accordo, che quindi abbiamo scoperto non c'è un tetto formale 240.000 euro, perché si può arrivare fino a 360.000, ovviamente per le posizioni apicali che credo siano il segretario generale della Camera e al Senato il segretario generale del Senato, rimane invece quella assurda, secondo me, norma per cui ogni 2 anni c'è uno scatto di anzianità che vale il 2,5% dello stipendio per tutti, automatico. Eh su questo io ho molto, mi sono molto impuntato, perché ho detto qui il merito deve tornare a essere un criterio che consente un avanzamento così significativo, perché alla Camera dei Deputati, così come al Senato e alla Corte Costituzionale e al Quirinale, che sono i quattro organi costituzionali del nostro, delle nostre istituzioni, è possibile che dall'interno stesso ci si definisca per quanto riguarda gli stipendi, cioè all'interno noi stabiliamo quanto devono guadagnare le persone che poi devono appunto lavorare lì, e questo non accade da nessuna parte, è impossibile che ciascuno si autoregoli il proprio stipendio, dobbiamo avere una distinzione fra il datore di lavoro e i lavoratori, lì in questi anni è stato possibile che accada questo, e questo no, purtroppo oggi, con tutto il rispetto, ripeto, delle professionalità importanti che sono lì, non credo che sia più ammissibile. No, ma la premessa va fatta, perché mi scrivono, mi chiamano su Twitter, una volta mi ha chiamato un ex dipendente della Camera a dire lei ce l'ha con noi, ma io non ce l'ho con nessuno, le professionalità di chi lavora lì dentro, hanno vinto un concorso peraltro, sono indiscutibili e nessuno le mette in dubbio, ma voglio dire ci sono delle storture dal punto di vista delle paghe che non è che denuncio io, le denunciano molti da anni. Vorrei capire questo, sa che i sindacati, perché si parla di clima veramente quasi da resa dei conti tra i tanti dipendenti a cui poi voi onorevoli vi appoggiate, vi dovete appoggiare quotidianamente per mille cose, c'è questo clima, cioè vi guardano un po' da l'altro ieri un po' con sospetto, ve la faremo pagare, tipo queste cose, no? Così evidente non è stato detto evidentemente, però non posso negare senza scivolare in inutili vittimismi, perché ciascuno poi deve mantenere le proprie posizioni quando ci crede, del mio caso non posso negare che fino all'altro ieri avevo un ambiente molto accogliente, molto molto professionale anche nell'essere assistito come questore della Camera. Oggi avverto una differenza, ma di questo non mi lamento, l'avevo messo in conto, per cui è importante, insomma, che. E che fanno? Le fanno i dispetti? Le fanno lo sgambetto? No, vabbè, quello si dice, non siamo arrivati obiettivamente no, a questo tipo di cosa, però. Ma boicottano il lavoro? No, non boicottano il lavoro, no. Non si boicotta il lavoro, però si è creato anche un clima per cui c'è anche una distanza da parte di una parte considerevole di altri miei colleghi onorevoli che in maniera a volte poco informata si sentono molto vicini alle lamentele del personale, dei dipendenti con cui si lavora ogni giorno, e anche questo clima di freddezza obiettivamente è qualcosa che si avverte. Però onorevole D'Ambruoso, che cosa ha fatto il suo collega Andrea Vecchio ieri? Ha definito i commessi della Camera protetti, ridicolmente vestiti in livrea come camerieri, grottescamente remissivi e servizievoli con i cosiddetti onorevoli che per questa loro mansuetudine bovina percepiscono buste paga da sogno senza avere alcuna competenza. Cioè, qui siamo veramente però allo scontro tra onorevoli e dipendenti. Infatti da queste prese di posizione, chiaramente, già per come le ha lette lì, è evidente che è una cosa troppo fuori anche dalla normalità, per cui noi abbiamo preso, sia io che il mio partito, abbiamo preso le distanze da un onorevole che fa parte del nostro partito, è stato eletto dal nostro partito, certo. Però non sono condivisibili assolutamente questo tipo di, ma nei confronti di nessuno e nessun tipo di situazione, assolutamente non è possibile arrivare a offendere in termini personali le posizioni, qui dobbiamo sostenere una posizione politica e noi stiamo parlando di politica, non di qualità delle persone. Senta, ma per concludere, questo tetto ci sarà oppure ormai basta, rimane questo a 360.000 euro? Cioè questo tetto da 240.000 euro ci sarà prima o poi o no? Ma io ad oggi le direi no, per cui oggi il tetto è di 360.000. Quindi questa è la risposta di oggi. Poi se i fatti clamorosi e straordinari che stanno accadendo fuori da quel palazzo, quindi nel paese di ogni giorno del mondo reale, imporranno ulteriori strette, e allora vedremo. Bisognerà rifare ad oggi. Ad oggi no. E io credo che possiamo evitare di arrivare a quel tipo di soluzione. No, sì, è chiaro, bisognerà nel caso rifare una nuova contrattazione con le 20 rotte sigle sindacali e arrivare a una nuova idea. La ringrazio, onorevole. Come sempre molto gentile, grazie Stefano D'Ambruoso, questore, uno dei tre questori della Camera di Scelta Civica. Ci fermiamo qui, che dire, sì, anche per oggi. Saluto e ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione, è arrivato da ieri con Elisabetta Fusconi e Alessandro Longoni. E Pietro Lacorte in regia, potete seguirci anche su Twitter, eh? Io sono Alino Milan, così mi trovate il profilo. Poi c'è il profilo 24 Mattino, sia su Twitter, su Facebook, numeri di telefono, c'è la segreteria telefonica e come dico sempre ci dormite sullo zerbino di casa ormai e va bene così. A domani, 6.30. Basta annunci, vivi ghiaccio un bruciaculo. Basta annunci, vivi ghiaccio un bruciaculo.